diretta è da CQ10, c'è qualcuno in ascolto. Attento Lazzarino, cambio, ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari, Brecco Brecco. E io già lo ascolto lì, e lì mi ascolta a me. Cara cara. Ah vai, ci vedi sta radio. Bene va questa radio, questa antenna di gomma. Eia. Cava cava. Cazzo, c'è un traffico qua, un casino. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Attento Gianni doppio ru, ascolti questa piccola modulazione con l'antenna di gomma, Bricco. Certo che ti ascolto, fra. Ma stamattina non c'eri, sono andato là, se c'era poca gente. Però mi ha rinviato l'appuntamento praticamente, Gianni, me l'ha rinviato a martedì prossimo, capito? Perché era incasinato. Ah, ecco. Io sono andato, fra, non sono andato presto, verso le 11:30 sono andato, non vedo un cane, sono entrato subito. E vuol dire che non c'erano appuntamenti lì? No, magari c'erano tutta la mattina e poi era finito, a quell'ora non c'era più nessuno. Poi dopo che sono uscito io c'erano altre due persone, ma non più di tanto, di solito è sempre pieno. Cosa vuoi dire? E io devo andare a farmi dire, perché è che mi spetta quel bus, lo sai. Se te l'ho detto che ti spetta il diritto, io sto andando perché non me l'hanno messo questo mese. E infatti lui dice che va in automatico. Però io lì se l'ho già presentato, capito? Mi sembra molto strano. Adesso voglio. Sicuramente ha fatto casino quella la moglie. No, non penso. È molto precisa mi facendo le cose, non penso che è molto sicura a lavorare. Infatti ho un'amica che hanno bloccato il credito perché aveva sbagliato tutti i documenti, capito? È stata praticamente 3 mesi, non prendeva niente quella ragazza. Che cattara, oh yeah. E una signora l'altro giorno è venuta piangendo, gli hanno bloccato la pensione e non so cosa cavolo è successo, gli hanno bloccato la pensione e niente, è andata piangendo che non sapeva come fare, manca a farsi la spesa. Pensato. Dove sei, fra? E adesso sto salendo verso casa, Gianni. Ho capito. Come mi ascolti? Faccio un trifo o fai? A fondo schiena, sì, 9:30 e qualcosa. Andavi. Tu esci molto bene con questo apparecchio, non lo cambiare e non lo dare, perché con questo qua esci molto bene, con questa modulazione qua regolata così c'è perfetto. Sì, ma infatti non lo so, lo lascio così io, capito? Vabbè, sto scendo liscio, Ma lineare qua non ne ho bisogno, la radio, non so fare lineare. Gara gara. Lascio un po' me che va bene, con l'antenna di gomma e questa radio, capito? Ehi, Afra, parla, che ti sto facendo una sorpresina. Parla, Afra. Scappa di positivo, mi hai dimenticato cosa che dici. C'è un altro momento, la metto sulla capoccia. Te lo metto io l'elicottero, capacaba. Capacaba e capacaba, frate, tutto sotto controllo, guarda, parte via, capo. Gianni Chitu, capacaba. Ciao Natali, buonasera. E allora? Mi stavo facendo un regalino a Franco, aspetta. Oh Gianni, esce bene con la radio, Capacaba e capacaba. Vai, guardati il filmato che ti ho mandato, fra. Capo, dopo lo guardo perché sto guidando, sto per arrivare a casa, dai. Così ti senti come esci di radio. A forte come radio, va bene. E capacaba quella radio. Io me l'ho immaginata che era una radio di capacaba, ricca. Guarda che mi di Perù è. Non fa la cazzata di data che sta radio, lì c'è andava in macchina. No, già la tengo, no, la do questa già. Se mi dice non va bene, me la tengo viva. E c'è il Michigan a minimo, capito? Adesso l'ho aumentato. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Va bene anche così. Andava bene anche prima, mi fa, non è che. Cosa ti volevo dire? Ma il Tempiese non ti ha chiamato. Cosa già? L'Udimpiese non ti ha chiamato. Gli ho mandato le foto, però sapere, non c'è problema. Cavagava. Avanti Natale. Cavagava, cavagava. Sai, la morte. Stasera ho cantato una canzone, ho pensato a te. E qua, che canzone era? La bamba. Dai, la bamba. Avanti, fra. Ma Franco si deve fare già la macchina, fra. E sarà acceso. L'ho fatto, ci sei anche tu, Tattarino, nel filmato. Un pezzettino ci si. Mandamela, cazzo. Cavagava. Lì oppure. Mi fa, adesso l'ho tolto. Ok. Mandato. Guardate, lo stai, Natalino. Sì, io già l'ho visto. Hai visto come esci? Adesso lo faccio andare. Tu adesso come sei? Col microfono normale? Ah, Natalino, il microfono di quelli di Napi ci c'hai. Già l'ho sentito. Natalino, adesso che microfono stai usando? 3 MB più 4. Lo sto usando a 2, se no si sente troppo il televisore. Già esce bene, dai. Esce bene, hai visto come esce? E io. Rispondeva, tutto bene, chiamate. Magari se lo metto a metà esce più forte. Adesso fammelo tu filmato, che voglio sentire come esce con questa radio qua. Aspetta. Parla! Esce di casa, va al lavoro. Ehi, dai, prove te che trasmissione, microfonica, vediamo un po' come va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatto like. Sì. Va bene, lo voglio sentire. Cavagava e cavagava. Voglio sentire questo microfono più caro come esce. Beh, cani, cambio. Arrivato, ti è. Sono arrivato adesso sotto casa che c'era un po' di casino qua, era un traffico. Ci sono arrivato adesso da Cali. Cavagava. Andiamo dove andiamo, boh. E Gianni che fine ha fatto? Si sta ascoltando una registrazione che gli ho fatto io. Santa Bona, dove la... Come ti sta arrivando lì a casa tua, Natalia, adesso, dalla macchina? Però sì, saturazione di radio, non è chiaro come poco fa. Ah, saturazione, no, guarda adesso. Fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, provo, 1, 2, 3. Lagaru, sì. Davide, ma capi dai sul coso. Si sente solo fatto, dai, e basta. Aspetta che te lo faccio quando parli con qualcuno, con me o con... appena finito di pulire la vita. O con Franco. Attenzione, Franco. Franco, evidentemente è sceso. Deve essere sceso dalla macchina. Capito. Ah, la palla con muro. Via. Prove tecniche di trasmissione. Cambio basso, basso e nudo. Attenzione, Franco California, si ascolti il doppio room, cambio. Come se ne salito a casa, adesso riprende da lì. Sicuramente se ne farà dalla macchina. E Marco Condo non è entrato. Negativo. Deve essere impegnato in questo periodo. Impegni mondani. Ebbene, registrato, dai. No, ci sono da cazzo, ma fatto, aspetta un attimo. Anche poco fa non ho registrato nulla, ho registrato solo. Fatto, dai, così e basta, non si capisce nulla. Non hai registrato, ci vado i piedi tuoi. Oh, voglio vedere cosa cacchio e fende che tu... Ma il dettaglio? Questa situazione. Eppure sta registrando. Mettilo sul video. Invece vai sulla macchina fotografica, lo metti sul video e clicchi. Poi una volta fatto il video vai su WhatsApp, premi dove c'è la macchina fotografica e metti il video. E così ho fatto. Adesso mandato vai. No, stavo registrando. No, prova a mandarlo a vedere se ce l'hai fatta. Mi l'ho mandato. cercando qua. Pillo, ti è arrivato. Dove? Hai sentito, si è? Sì, adesso sì. Già l'ho sentito adesso. Dai, non va bene. Non va bene, dai. Frank, ci sei? Sei tornato? Un attimo, già sono al telefono. Cava gala. Sei bene, in alta lì. Cappa, aspetta un attimo, so che mai dire una cosa. Ieri sono venuti martedì mattina. Da martedì, e si può delle telecamere. Esatto, servo delle telecamere. Mi piace molto quell'apparecchio che c'hai, Sì, bellino, Questa cassa con giubbotto rosso. Quant'è che costa quello? 163 spicci, l'ho pagato 172 con le spese. Non costa tanto, No, per l'apparecchio che è l'originale questo, dove hanno copiato tutti, e Intec, CRT, capito? Questo è l'originale proprio. Quello che avevo prima pompava al doppio di questo, perché questo è normale. Come l'ho comprato, Ho capito, quello là che c'ha quella persona là. Ehi, quello lì pompava un bel... Brava, almeno il doppio dei vatti, perché quello che me l'aveva venduto l'aveva tirato lui. Ho capito. Ho capito. Ragazzi, quante mani è passato il apparecchio? A te l'ha venduto uno. Ad Alessio, e Alessio l'ha venduto a un altro. E a quella persona l'ha venduto Alessio. Qui al lavoro, che ora... Io gliel'avevo dato con cuore proprio, perché mi aveva detto, non ho apparecchi, questo e quest'altro. E gliel'avevo venduto a lui io. Capito? E lui ce l'ha venduto poi. Ma dice che è un beneficio da usare, una cosa difficile. Tu gli imposti il menù una volta solo e non devi fare altro, e poi lo usi normalmente come un qualsiasi apparecchio. Se gli ho modificato anche il bip io, invece di averlo lungo l'ho fatto corto come quello del Colt, capito? Lei e poi cosa avete da regolare? C'è il macchinino c'è da regolare e il coso, il MIP gli ho fatto, basta, non vai a trovare là, bisogna stazionare tutto quanto. Sai, 10 kHz in più o in meno, capito? Dopo c'ha il tarifier, sia in trasmissione che in ricezione, oppure in trasmissione oppure in ricezione. Solo. Capito? Bello è. È omologato. No, questo no. L'omologato era il 3009. Allora grazie per... Questo è omologare. Questo è mele omologane. A quello che c'è tu. Come? 3009 era omologato, capito? Quello che mi si è rotto, adesso me lo stanno riparando. Ho capito. Posso scambiarlo, ma non comprarlo. Carlo più Roma. Avanti Franco, California. Sì, sono in movimento già, dai, sto scendendo un attimo all'impunti, devo fare la commissione al volo, dai, poi risalgo. Ok, voglio vedere se mi ascoltate. Già ti ascoltiamo, sempre in girella Gibra, via da te. Io esco già, lo sai che non ci sto stare a casa, sto sempre in giro, da una parte all'altra, per la commissione, capito? Carragara. Ascolta, la radio se è alto il macchinino, come va? Va bene. Ma va bene, si può lasciare così? Lasciala così che va benissimo. Carragara. Ma Palì cosa dici? Va benissimo. Ma sembra una modulazione mentre alla grande, va bene. Andate, allora lascio così, dai. Ma è fedele come modulazione, la mia voce sembra uguale a come sono in verticale o no? C'ha una voce troppo potente, va benissimo. Va bene così allora, va. No, toccare, la che fa. Ia. Cara cara, avrete tutto sotto controllo, la partiria qua. Dove sei arrivato, fra? Cara cara, vicino alla Pritella sono quasi, dai. Alla Pritella? Alla Pritella! Alla Pritella. Cappa, cappa. No, c'è dove la Pritella, cappa? Sì, sì, lo so. Non avevo capito, ma capita la Pritella, ho detto giusto. Sì, la Pritella, la Filomena, un po' di tutto, dai, già va bene. Vai a qua lì. Che cara cara, dove c'è lo stradosso, la Pritella. Qui senti anche qua con la tenda di gomma, Gianni, e tu hai detto non mi ascolti. Chi è che non ti ascolta? E domani sto arrivando basso lì da te. Qua che ti do segnale sicuro, palla, palla. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 30. Andiamo bene. Quindi va bene, questa radio stige bene, dai. Dove sei adesso, frappo, sapere? Sto prendendo lo scorrimento veloce per i punti, dai. Vabbè, favorevole, per me quel pezzo. A me con l'antenna di caucciù, mi senti? 9.30 Natalino, qua. Qua c'è 9.40 Natalino. E la radio com'è adesso, che ho alzato a metà? Va bene. Sì, 9.30 qua, a picchi di 9.35. A picchi positivi. Cosa ti volevo dire? La radio è aumentato. Ehi, va bene così. Gli ho messo una... dentro gli ho messo una spugnetta di quelle antisuffio mi dentro e quindi dovrebbe essere cavagava adesso e io lo devo cercare, se non vado me le compro via le biciclo, ce ne vendono per mettere il microfono. Quelle esterne, quelle che si mettono nei microfoni, quelle cuffiette. No, io ne ho trovato una piatta e gliel'ho messa dentro. E ce l'ho anche io a casa. C'ho quello a vero, tutto fine fisso. No, questa è abbastanza grossetta. Infatti, sicuramente ha abbassato un bel amplificazione. No, va bene. Ha capito la tali, magari ti filtra anche i rumori. Sono di quelle antisuffio proprio, l'ho tolta da un microfono che avevo e adesso è cavagara. È meglio così, dai. Ma un microfono vecchio. Ehi, un microfono vecchio, allora. E c'era la cosa dentro. Genova. Quella specie di cuffia, però piatta. Capito? E l'ho messa dentro l'MBG4, in modo che... che filtri un po'. Che sono a carabinieri, forse l'ordine. Sentami in bocca di roba. Perché adesso è a metà. In questo momento. Un grande... aspetta, lo metto a due e torna. Regalato. Più di mille parole. Così è a due. Perfetto. Senti, ma tutto quello che dicevo. Ehi, troppo amplifica questo qui. Carichi. È per quello. Ma per me è così forte. Grazie, Dora. È fortissimo. No, l'altro, quello che uso con Galaxy. Sì, è forte lo stesso, anche il tuo. Prendere più 4, l'ho fatto io, quello che ho fatto il pubblicello. Vabbè, sono bei microfoni, se li sai gestire bene, sono dei bei microfoni. Per quello che costa. Vai a cuccia, animale azzurro, ti avanti di fare il bagaglio. Usare un rubeva, Rumi. Io sto cercando un Savelta. Savelta lo stesso dice che amplifica un bel. Io ho la V508, vi lascio così potete parlare anche e poi vieni tutto quello della Proxel. Già lo conosco, quello che c'è mixer. No, senza mixer, questo è normale. Grazie di cuore, grazie. C'ha solo i tasti e bu. Io l'ho venduto a Stefano perché non mi trovavo, non riuscivo a regolarmi bene la voce, un casino con questo mixer, so che Duquesne vende, ho quando, rispondendo. Ma la cosa regolato Claudio, ma non mi spiegava più di tanto. Io ce l'avevo attaccato a quell'altro apparato, ce l'avevo. E adesso non ho più. Quello lì se lo nego lì bene, che la voce per regolarlo bene già esce bene, ma se non hai la voce, se non hai la voce non è grossa, e col mixer riesci bene a allinearla bene la voce. Ma mixer non è a... Voglie Marinella. Questo qui non è a... Dalla Puglia dell'acqua. Io mi ricordo che il mio si chiamava AV508. O 518, non me lo ricordo. C'aveva il mixer, era largo, mi rimaneva largo con il mixer, con tutte e quattro le frequenze, medie, alte, basse. No, questo è normale. Devono solo attraversare un ponticello. Non è un mixer questo qui, è come la Dunis. Fabio la travolge. Ho capito, vabbè. Te lo ricordi come uscivo io con quell'altro apparecchio, con quel microfono? Yeah. Male uscivo. No, ma è più... non rendeva come film, capito? Sì, usciva bene, ma sembrava una radio normale. No, come il Kenwood non rende, no, a parte che io lo usavo in basso, col macchino in basso, però amplificheggia un bel chissù, se li mettevo il macchino in manetta, guai. Ho capito, magari tu che lo usavi in basso per non disturbare, certo, e vabbè. Ah, è interessante che ne hai uno che ti fa la bella. Sì, questo c'ho anche il Turner più 3, c'ho l'MC60, certo l'Icom non rende come il Kenwood perché non ha il processore. Abbandonare. Nel Kenwood c'è il processore e la voce te la amplifica a quello. Andiamo in diretta a forse. Ho capito. Adesso è interessante, ma l'MC60 lo puoi mettere anche negli apparati normali, basta che ti fai l'attacco, ti fai una prolunga e te lo fai passare da attacco, che vuoi un attacco normale. Lo sai, dice esce bene, ti metti le batterie e hai fatto il gioco. Ah, gli lascio questo. L'MC60 lo metto sul 440. Sicurezza di lasciare quelle zone. Pensavo per il mango asciutta, 380 euro, chissà com'è. Ah boh. Il secondo, evitare che io so com'era il mio. Abbiano costante contatto con. I lastri no, non ne so, l'altri quello Luca Ciambitti lo devi nella cassa. E proprio. E infatti. Io l'ho guardato bene, l'ho ingrandito e ho visto che c'è una bruciatura di sigaretta sulla già la cornicetta della parte anteriore, c'è una bruciatura di sigaretta, quando vado del fumato c'è la sigaretta per salvare alla radio, e l'ha bruciata, hai capito? Già ho visto quella cosa lì, tu non è mai meno. Sì, lo so, tu sei pignolo, se non è a posto non... Quanti vaccini in effetti? Non è lì, di Arusoku. Infatti molti sono... No, non la devo prendere, però in ogni caso sarebbe stato scartato. Gli hanno chiesto se funzionava l'acquabattore, tutto quanto, lui ha detto di sì che era perfettamente funzionante. Il mio lo stesso c'ha l'accordatore, c'ha tutti i filtri, che è proprio sulla zona di questo, il mio pompa biru aveva dei picchi allucinanti nel collegamento. Vabbè, ma ha finito è disusa, è lungo che lo mese di maggio, se non maturato ancora il 2009, evidentemente, anche perché gli mancano gli strumenti, lui le fa con calma le cose, no? Non so cosa dava Russia la Carlona. Ma se mangi buone, ma lo guardi, Natali, quella è la cosa, se si mette lo fa magari 5 minuti e lavora magari veloce, lui lascia da parte, è sempre lungo di presenza. Sì, ma stavo facendo altre cose. E qua a tempo perso mi lo fa. Perché c'ha altre cose da fare. Quelle robe lì a lui non gli interessano più, hai capito? Io gliel'ho comprato il pezzo che si era l'usura e mi si era rotto il coso del manopolone, il circuito del manopolone, mi grattava, e allora gliel'ho comprato nuovo, così almeno è a posto. L'ho trovato originale. E allora, il suo è. Gliel'ho dato e tutto. Solo a smontarlo, 9 ore dice che ci ha messo. Però ancora non se ne vede i ravvini. No, l'ha fatto tutto a pezzarini. Perché a me questo qua mi voleva vendere sì, 80, però mi ha detto la verità, è stato onesto, mi ha detto che c'era un cursore che non andava bene, e che praticamente lo dovevi toccare con l'unghia perché sennò aumentava di brutto. Ma vabbè, quelli sono tutti così, che devi toccare con l'unghia e andare a colpirti perché sennò aumenta troppo. E mi ha detto che non doveva cambiare il cursore, però si è andato da un tecnico che lo ha messo lì, quindi cosa ha fatto? L'ha ordinato lui, l'ha fatto lui, tutto a pesi, l'ha smontato tutto. Se adesso te lo ricordi come fare, e gli ho fatto le fotografie passo per passo e piano piano l'ho rimonto tutto. È complicato, il mio l'ha fatto a pezzi mi, per potergli cambiare quel pezzo. A Cavani il frontalino lo devi tutto rimontare. E lui ha detto quel frontalino lo stesso, in un giorno l'ha fatto. In un giorno ha detto quel frontalino, ha detto che tutte cose le manopole, il frontalino, manopolone, tutte le cose che bisognava togliere, capito? Sì, lo so. Dice che a smontarlo ci ha messo 9 ore. Poi lui se le fa di notte, queste cose, mamma mia, come si diceva a fare cose di notte. E magari perché è più tranquillo, c'è più pace, mi viene meglio. Anche io le faccio di notte certe cose. Quando c'ho le paranoie che devo finire, devo fare qualche cosa, la faccio di notte. Che c'ho tutto il tempo, perché di giorno devo fare una cosa, devo fare l'altra, la spesa, la pulizia a casa, il video, il gas. Ti passo il tempo così, capito? Lo so. Dici che rubi a mano il 3009 per l'ultima volta che è venuto qua, però ancora non se ne avvicina ravini, né di uno e né dell'altro. Gli ho dato anche l'alimentatore, perché lui manca alimentatore aveva, per poterlo provare. Domani ci sono le vibrazioni a Porto Torre, se vi può interessare, alle 9:30, le vibrazioni a Torre Aragonese. Ma cappa. A proposito, devo telefonare un amico, a vedere se scende con me e andiamo a vedere. Sono bravi, dai. Ma io non me li ricordo, non lo so se li ho mai visti. Cos'è successo? Cosa dica? Magari conosce le canzoni, dai. Sì, magari sì, ma io non. Però non ce l'ho presente. Le acque. A me mi piace troppo Due Vite, l'ho imparato, adesso l'ho mandata. L'ho fatta stasera, Due Vite, cazzo che bella che è. Perché vorrei va a me gioca ma vi dà un ghiccio che non l'altro omologato già c'è la popolazione al punto che da una parte le vaccinazioni e così a Roma siamo a posto quando me lo torna il 2009 vuol dire che mettiamo in moto anche quello lungo quei canali che ce l'ho ancora perfetto. L'ho messo in vendita, quello è anche lui. Quello è omologato, chi te lo fa fare a venderlo? I rischi sono... Sei nuovo nuovo. Lo so, ma stai, ma io tropica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 apparati c'ho. Ma fanno comprare più nulla. Le patizzate. Uno c'è fuori, perché non ci stanno tutti dei ripiani. E uno ho dovuto mettere fuori. Questo tema ha fatto fare prove di tempo l'altro giorno, ha fatto tutto fotografare, fare il filmato, attaccare l'orologio per vedere se funzionava, fare tutto quanto, dopo che ho fatto il tutto, ha detto guarda, l'ho preso se funziona tutto. Io ho detto sì, funziona tutto. L'unica cosa che c'è che non c'è il microfono originale, ma ti sto dando un microfono amplificato che costa 70 euro, non costa 5 lire, una static. Quel colore me l'ha scartato perché ha detto che è un collezionista, lo guardo con il microfono originale. Ma dimmi giù, se ruba il microfono non l'ha pigliato. Ma fatto un bambino in così, in lì. Mille cose, mille filmati, dice, mi piace, l'ho voluto vedere acceso, l'ho voluto vedere, l'ho fatto il filmato, chiamato, detto, come sto uscendo apposta per farvi sentire che usciva bene. E c'è fondo scala, la madre è fortissima, ha sentito tutto, e secondo me non aveva gara di biliardo, prima mi ha fatto tutto quanto, lui ha pissato d'ora. E magari non va via di dinanzi, c'è una cosa ben pucciante già, molta gente, cazzo, va a comprare la roba e non assurdi però. È chiaro che ti... hanno il desiderio di averlo, magari certe cose non se lo possono permettere. Comunque mi ha fatto bambini così, filmati, di tutto, la prova a vedere se funzionava l'orologio, mi ha lasciato l'orologio funzionando, quando è scattato il minuto che ha cambiato, l'ha visto funzionando, tutto quanto, l'allarme con baracchino che si accende, tutto quanto, ha voluto vedere tutto. Le funzioni, e voi se non mi funziona. Infatti, ma Gizzo, secondo me non va via di nacqua. Tirava giù il tipo. Lui ha detto che essendo collezionista vuole tutto originale, se no per quel valore, capito? Ah, le fotografie aleante di legno che ho fatto, non c'hanno un graffio. Cazzo mio, io l'ho preso lo stesso da un collezionista questo qua, l'ho preso in continente. E mi ha detto che lui se l'aveva usato due o tre volte, era troppo, quella l'aveva messa in vetrina proprio per collezione. Il microfono me l'ha mandato, ma non funzionava, capito? Non funzionava il microfono. E allora l'ho usato per altre cose, il cavo l'ho preso e mi è servito per mettere l'altro microfono. Quindi non ce l'ho per quello. Ne ho capito. L'unica cosa che da pochi fatti 30 solo questo qui. Imperante. In banda laterale. È una M. 15. In FM ne da 40. Sì, è abbastanza tirato, Sì, vabbè, ma in banda laterale con 30 watt va in bocca a cosa, mi sa, Esatto. No, ma se ci può propagazione, Natalia, anche 5 watt vanno bene. Già lo so, se c'è propagazione. E noi abbiamo documentato che sono potenti. Uno spagnolo mi ha detto che arrivava basso stamattina, perché c'era la propagazione cattiva. Anche lui l'ha detto. Poco c'è il tempo di televisore, ed è a 2.000. Ma tu sei vicino al televisore, in realtà lì per farmi campare. Questa è la realtà. E ce l'ho siamo a un paio di metri per quello. Vedere che cosa. Che è minore il rugo, siccome c'è mia moglie che sta guardando il televisore, cosa vai? Non ne vai a vedere. No, ci sente carabinieri, di tutto di più. Roba a resti. Infatti mi rompe anche le scatole a modulare per quel motivo. Cavagava e cavagava. Lo so. L'unica sarebbe comprare le cuffie di quelle senza filo, ci mette le cuffie e non ti disturba più. Ma c'ho la presa delle cuffie, che è rotta in questo televisore, capito? Non ci sentire. Com'è rotta? L'entrata delle cuffie è rotta, la presa. E per ripararla bisogna aprire tutti, no? Cammino lo vado a fare, un televisore nuovo. Lasciamo stare le cose come stanno. Ah, e basta allora. Se mi cambio il televisore gliele comprerò sicuramente. Io me l'ho cambiato, le DG. Mi ha fatto dare i numeri. Sai cosa faceva? Lo spedivi e perdeva tutte le memorie, dove memorizzavo ogni volta. Poi ultimamente andavo a memorizzare e non memorizzava più. E ora me la giungiamo. Mi ho comprato un Samsung. E questo è bello lo stesso, è grande. Come televisore. Però come ci stavo entrando le cuffie per ascoltare mi ha mi si è rotta la presa, è una smart TV bella, agganciata a internet e tutto. E allora andiamo, è bellissima come televisione, è solo che quella foto che mi è successo quel danno lì, poi abbiamo visto questo. Magari è facile anche da cambiare, mi da tagliare il sostituto. Magari c'è sicuramente un dadino dietro, basta smollarlo, ne esce fuori e glielo cambi. Mi sa che ne ho anche io di quelli di... Sì, tocca smontare tutto il televisore già. Non la giugana. Il pannello di dietro bisogna smontarlo e poi ci arrivi subito. Se non è che è una trasmissione, perché così non risolveresti il problema, capito? Così devo vedere le cuffie, che a mio padre non le avevo prese, quelle cuffie senza filo. Sì, lo so. Il carico di non aver visto l'arrivo. Purtroppo. Sì, ma tu appena mi ha visto. Non mi vedo, se no ve l'avevi umiliato. Che c'ha, ce le ha a un lato, ce le ha, non ce le ha dietro le prese, ce le ha a fianco, ce le ha sotto e a fianco tutte le prese. A chi va un caso tu di brisi tu delle visore? E come tutti quelli nuovi sono così, c'hanno preso audio, video, c'hanno attacchi strani, e c'è il pannello di fianco che è debole, si è rotto quello, si è rotto dove è attaccata la presa. Io ti bari me buon Gabria fa vai va la Garussi che andava, infatti dai, se non te la senti meglio che non lo tocchi. Franco, ci sei? Franco, spesso, no, forse sta facendo quella commissione ai punti, aveva detto. Probabilmente sì, è passata la brittella. Sì, infatti. Provare a ridare. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma presto mi natali, pensavo che fosse più tardi, per quello non c'è nessuno ancora, Marco magari entra dopo. Sarà nel mondo dei sogni, Marco. Che lavora in... Chi su entra ogni addante? Ha datore di lavoro. Una tantum. Vado a... E vabbè, c'ha quel problema con la mamma pure. Lo so. Io sei un idiota. Se la vede quando agli arresti domiciliari. Sì, non ti la fa ora, a me è una prigione a vero quando è uscito. Per il momento mi la dico e chiamate, mi dico, già, basta, compareggiami le sigarette, non mi so che agli arresti domiciliari, non mangio manco i sigaretti da fumare. Non ti la fa, a me è una prigione veramente quando è così. Io poi non mi potevo muovere a chi navio lui. Navio. E dovevo fare la guaglia. Poi era l'arzillo, tu fare l'arzillo, dove quando stavo cercando tutto. E io via. Quando sono così non capisco quello che fanno, poverino. Ma quelli si vanno i gruppi, questi da stare lì. Già lo so. Se no non guidava Vega a dire ammalato. Cazzo in una manovra ha girato la macchina, ma anche io. Dimmi tu. E candela sano, cazzo, era una mela buccendo la macchina. Andava piano piano, meno a me, tutta la fila dietro, lui. Quando era malato, se lo guidi, guai. Ti sto dicendo, una volta ne ha rubato un Mercedes, ne ha rubato. E non te lo disarricchisci io, che ne vai a dedicare tutti i cibi, tutti i casi, le arricchette, che poi la ragazza per una campana. È perché lui non lo sapeva dove, tu decido però non sappiamo dove devi andare. Il poverino non ragionava. Poi mia, e non fatto che ma voi se vedi che capirà in consegna, eh. Beh, e te credo. Gagliardini. Va via che c'ha un po' record, me lo ricordo ancora, andando a sentito, un cazzo con un furgone tutto carico, dovevo andare a scaricare il negozio. Quella una via lunga, lunga, ma che cazzo è successo, qualche incidente. E invece sai la via, ma con dubbio. In prima via, per il piano piano. E allora? Si ridica che cosa se ne parava dalla macchina a me, senza il tempo. Era come il mio socio era lo stesso, quando andavo a Plattamona la mattina alle 8, io andavo a lavorare, lavate 5 cose, tutta la vita di macchina, e piano piano andavo. Sì, infatti. Una volta a Roma cadere in grosso, vedi, andelli a pigliare che cosa deve fare. Sì. E uno hai sbaglio, l'ha detto, mi la macchina di Rezinga, se ne è farato dalla macchina. A Giumagi Romagna, a Idu. In effetti c'è un bel fario tutti dietro, era un po' fumosa, ma non ricordo bene. Una macchina riccia era. Valorizzata. Mangiava tutti pure le macchine vendi. Quando aveva quell'Omega, quella gatto chissà camminava che cosa mara, gli va via la turbina mara tutti. Però tu sempre piano camminava, non veniva nulla di qua. Era avanti delle ore, io come? Cosa hai detto già che non ti ho capito? Ho detto tuo padre era amante delle Opel. Sì, allora, sempre Opel l'ha avuto lui. È una responsabilità. La Suvizia era bellissima quella Omega. Poi se te la ricordi questa Marengo che hai avuto, io non ho mai sentito, l'ho vista solo da te, questa macchina Marengo che avevi. Sì, quella due posti. Quella era tipo furgonata, rimaneva, e lui sa che per portare le paste. Io non avevo mai sentito questa macchina Marengo, l'ho visto da te e basta. Sì, la della Fiat era. Quella lì li avevo dovuto fare tutta la coibentazione dentro, la vernice doveva essere ad acqua, non so come tutti i giorni a GPS per poter lavare, perché se no non le potevi portare le paste. Se noi era così, facciavano di fare in un minuto. Coibentate come quelle della carne del pesce. E così voleva fatta, allora quella era 2005 ragazzi. Ehi, al momento buono una cosa, la voce per il retrovaccio invece costa un bar, fare il quadrato. Io non me la metto già suri. Sì, ma l'hai dato un colpettino, non niente di grave, e sono appena per appoggiata. Bum! La pari buono, ferma! Bei tempi qui! Bei tempi! Lui Gianca, ma c'è un caso analogo perché hanno già avuto uno o due di macchine. A me mi piacevano quelle R4, quelle erano trattori, era R4, lì dopo veniva bene a lavorare nel motore, c'era lo spazio. Bella era, cazzo, si trattava senza la borsa, non andava a casa con questa macchina. Un trattore era, macchine belle erano quelle, erano macchine formidabili. Una volta avevo fuso il motore perché mi si era rotta una fascia di quanto chilometri aveva, deve essere. Cazzo, mi hanno rifatto il motore e quando l'ho ritirata una bomba era quella macchina. Dopo la sua squadra di calcio. Sì, io mi ricordo ce l'aveva un amico mio, prendeva le cute a manettone, cazzo si pigiava, ti faceva cagare sotto ma non si muoveva. E quello sì, anche le Citroen erano così, belle molleggiate. Poi la Asha, pure di passare in ogni arugura, pure il R4. Sì, è vero. Sai come ce l'aveva color beige? Meglio ce l'aveva. Siamo andati a te, giocata la fumosa, abbiamo gli stessi cui ci faceva fare addosso. La fumosa me lo ricordo una volta, mi era rubul, ma anche lì mi era rompendo le palle a chi era camminelli piano. E così una frattata mi era giù corrida con rubul. Se ti esce una macchina da ricubio un casino. C'era anche c'era anche nebbia, c'era, lì alla fumosa. Stavamo andando a c'è dove? A ballare a Carnevale, a Tempio. Sì, io invece stavo consegnando, facevo il corriere. Certo. Ma quando lavoravi con quel cavalità? Sì. Passati sono andati, allora bisogna riposarsi. E allora, ma io pure marato sono andato a travagliare, ma mento dietro. Ma va, oh. Io uno o due volte sono andato anche se mi senti più male. Poi, ultimamente dopo che andavo non ce la dovete sotto i rubini, un buco sembrava un vulcano. Sì, a me la mento. Rigiovane da basso e andare a travagliare, se si intende nel poco poco mari. Ascolta, ma la ventola si sente? Prova. La ventola dell'alimentatore. E appena appena si sente già. È usato l'alimentatore quello là. Sentito. Sì, infatti, è silenzioso. Sì, infatti. Hanno quelle ventole di computer. Ma che se la 50 ampere? Vado bene. C'ha 3 o 4 cose attaccate. Sì, vabbè. Tanto chi assorbi un usuro. L'altro cosa assorbi? Se sono in ricezione non assorbono. Un assorbimento quando va in trasmissione. Te ne accorgi anche dallo strumento. Vabbè, certo. Ma vai, io dico, ma così muovi un mio? E infatti, con 2 watt cosa vuoi si muove? Si muove pochissimo, dai. Che va bene. Intanto, per parlare con Sassari va più che bene. Anche con 1 watt puoi parlare con Sassari. Guarda che con 1 watt è tarino. Sì, vabbè, ma più di 2 non scende. Vabbè, perché ci sono quelli che scendono anche a 1 watt. Ci sono. Dopo noi in giugno scende anche 1 watt. No, a 2 watt scende. Magari il suo è stato regolato a 1 watt. Il mio questo io l'ho preso nuovo e meno di 2 non scende. Lui mi sembra che dica 1 watt, non sono sicuro, ma mi sembra che dica che esce con 1 watt. Beh, chi suisce con 2 watt? Perché l'ho misurato. Esce con 2 watt, l'ho misurato col watt, me te l'ho capito. Però è anche giusto quello che dice lui. Non è un picco positivo che c'è, Natali. Assurdo, È così, non gli ho fatto niente a questo apparato, Gli ho solo regolato il macchinino e boh, dal menù. E vanno bene questi apparecchietti qua. E poi non costa neanche molto come apparecchi. Ma infatti, dai. Vanno bene, sì. L'altro giorno sono stato parlando con uno di Firenze, un quarto d'ora per vedere, una telefonata. K. Sì, infatti è così. In SSB ce l'aveva anche lui un apparecchio come il mio. Lui stava, vabbè, quando ha parlato con me stava usando un ICOM, stava usando. E io invece usavo questo qui perché c'ho solo questo. Vabbè. Sì, ma escono meglio i cable secondo me, degli ICOM, magari in altre bande no, ma è in 27 così. Ah, solo in 27, in banda laterale li devi sentire quegli apparecchi, sono fatti per la banda laterale, sono perfetti. Sì, già lo so perché qualche amico ce l'ha e li ho sentiti. Un 100 watt a voglia in banda laterale vanno benissimo. No, qui lavorava con lei che la conosceva, diceva voglia di ex con quegli apparecchi a Rugrido. Io che ho 30 watt qua e di più non maggio, ma chi si compra nei 100 watt? Grazie, sto facendo grazie all'organizzazione. capisce nulla, si sentiva la musica. Adesso sì. Il signor che davvero ma unica e donna Gacu mi hanno scritto persona talentuosa. E beh, aveva 10 e non sa del resto. Già nel caldo. Vabbè, mi fa piacere, le canzoni che ho fatto sono tutte piaciute e anche come le ho cantate sono piaciute. Ma c'è tutto dei bei voti. Che ore sono già? 7 meno 20 Natale. Allora è segnale di YouTube che ho ridotto. Perché poco fa era presto, cazzo. Si è passata la sera, ma così ne siamo abbizzati. Sì, era presto sì. E vabbè. Erano le 5 e mezza, mi guarda. Gira, gira, mi misuro la glicemia e magno, sennò andiamo mari. Andiamo qua, andiamo. Roba di fame, ciò che fa. Fatta lì, ieri ce l'ha a prendermi le pizze, no? Ma ne ho preso 4, io sono bene. E chi ci mi ha fatto? Guarda già, te ne ho messo una in più, te la regalo io. Immagino domani a 5-7 al taglio. Sì, cazzo, ma poi si lamenta che c'è stata la glicemia rimpicco. Vabbè, ma quello lì è stato un caso. Ma se è sempre per caso, che te le mangi 5-7. Se mi mangio 5-7, a parte che non ci riesco a mangiarmene. Ma io sono un sacco senza fondo, così ti diamo. Grazie. Tre più mortadelle in una boccaccia si sa tutto dentro. Prima l'hanno mangiata in due. Cara sola si l'ha mangiata. L'ultima cosa si l'hanno mangiata in due. Ma chi subirà di vidi? E quando andano a mammentare e si pone la borchetta le rugose. Cara tranquillo che si, già si tratta questo io. Ma a me è stato un caso, se no non è mai così tanto. E beh, lo so. In questo momento stanno dando una... Uiaia. Io quando mi prendo la pizza qua, me la prendo di quelle baby, fanno assieme, ma io una pizza di chi si come se la mangiava, ma prima penso che non ve la posso mangiare, normale. Battali, sì, dimmi. Metti Google un attimino e scrivi, e dimmi come si dice... In tedesco gatto e carbone. Gatto si dice cazzo. Tuffone. Non ho capito la seconda. Carbone. Carbone. Eia. Gatto e carbone, così è. Eia, in tedesco. Cole cazzo. Cole cazzo si dice. No, devi dire come si dice gatto e carbone. Così con il vocale, diglielo col vocale, come si dice in tedesco, gatto e carbone. Ah, vocale, adesso te lo dico. Comunque, non dico. Come già? Sentito anche? Sì, chi su di Alexa mi ha fatto intendere. Un gatto